svette larga from mangate de buonon perfette. Ma non è con vestette, ma non è con vestette. Non che dice che botte, ma non è la è con tette. Idiote, idiote, fai questo te un potete. Lo che dice che potete, ma non è la è con tette. Idiote, idiote, fai questo te un potete. Aere mania amico, sta mrone già un ciosco. E da me rame dei chiam, se ramonte di via. Bamba me i che trune mai che bamba che metti don. Bado me mni, ey. Pane me pique, poi entre crevete in top. Stanat, e tu di bai un danat. Stanat, bado me paste mangat. Baby, ma svete larga fra un mangat. Ese poi non pervete. Ma non è come stete. Ma non è come stete. Non che dice che pote. Ma non è la è con tette. Idiote, idiote. Yeah, oh, baby, du är man som en namn. Baby, du först ställer för namn. And we do it all night, do it all night. Oh, stannat, ett du i början, stannat. Stannat, vad om man passar mangat. Nu kan jag dricka på dig.